9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, oggi martedì 2 maggio ci occupiamo di questa legge, la 231, che dal 2001 ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo strumento per contrastare che cosa? Per contrastare la criminalità economica. Era una legge che nasceva in recepimento di direttive comunitarie più che altro volte a estendere la punibilità e quindi a crescere le possibilità di disincentivare le imprese dal commettere reati, soprattutto in alcune materie, quelle a cui pensava l'Unione Europea erano soprattutto quelle ambientali. Naturalmente in Italia sono diventate invece le materie rispetto alle quali le imprese negli anni precedenti al 2001 erano diventate protagoniste delle cronache e dei reati a maggior impatto, per così dire, anche emotivo oltre che criminale, quindi quelle di corruzione classicamente ai danni delle regole di concorrenza per gare bandite dallo stadio e dallo Stato e naturalmente per i fenomeni poi di criminalità mafiosa e di collusione con le grandi reti criminali. Tuttavia, che cosa accade? Accade poi che nella applicazione concreta di questa 231, che viene approvata all'epoca da un Parlamento, lo ricordo bene, non troppo consapevole delle possibilità concrete di questa estensione della disciplina rispetto al tradizionale nostro ordinamento, nel quale si soleva dire che societas delinquere non potes, insomma non c'era la responsabilità oggettiva della società, e in quel Parlamento un po' distratto si finisce per introdurre questa norma che poi nell'applicazione concreta diventa una norma dallo spirito per così dire evolutivo, cioè la lista di reati alla quale si applica viene estesa nel tempo e quindi diventa uno strumento molto potente nelle mani soprattutto del pubblico ministero titolare delle fasi iniziali del procedimento. Perché? Perché le misure che esso consente al pubblico ministero di richiedere e che poi il GIP deve valutare se adottare, ma nella fase insomma iniziale proprio delle indagini, sono misure molto penetranti e dalle conseguenze insomma molto, molto delicate. Oggi si tengono le udienze davanti al GIP di Roma per esaminare le richieste di interdizione e in subordine di commissariamento avanzate dai pubblici ministeri titolati dell'indagine per evasione fiscale e le frodi carosello delle due società telefoniche Fastweb e Telecom Italia Sparkle. E proprio partendo da questo presupposto, senza voler entrare nel merito del procedimento che riguarda Fastweb e Telecom Italia Sparkle, tuttavia abbiamo deciso oggi di fare questo approfondimento, perché nel caso di Fastweb sarebbe la prima adozione di questa misura commissariale nei confronti di una grande, grandissima società quotata italiana, lo ripeto, è la società telefonica titolare della più estesa e la più tecnologicamente avanzata infrastruttura alternativa a quella del monopolista, e soprattutto è più avanzata tecnologicamente perché è l'infrastruttura di fibra ed è la più estesa in Europa, è una grande società quotata e una società quotata oltretutto il cui controllo è oggi esercitato dall'anno scorso da Swisscom, gruppo svizzero di telecomunicazioni, e quindi si tratta per la prima volta dell'adozione di una misura commissariale su una grande quotata controllata dall'estero, con conseguenze che sarebbero, vedremo oggi con i nostri ospiti quali, la mia, io sono molto preoccupato perché penso che potrebbe trattarsi di un potente incentivo a distogliere ulteriormente capitale estero dall'investire nel nostro paese in investimenti diretti esteri, cioè che sono quelli che controllano o fondano nuove imprese nel nostro paese. Si dirà, e qui finisce il mio pistolotto, beh, cosa vuol dire? Vuol dire che con questo allora sei già la radio, sei di Confindustria, poi stai parlando in questi modi, cosa vuoi? Vuoi ridurre, tornare alla situazione precedente per cui le società non rispondono dei reati commessi dai loro manager più o meno apicali o dirigenti? Io non voglio dire questo, dico solo che questa responsabilità oggettiva che arriva fino al commissariamento, il congelamento, soprattutto quando applicata in società di questa complessità, in cui ogni giorno si tratta di assumere decisioni ordinarie e straordinarie, particolarmente delicate per lo sviluppo strategico, e quindi non si tratta di una custodia giudiziale di azioni, di beni, ma si tratta invece dell'esercizio concreto dell'attività di direzione di un'impresa, ecco, in quel caso io ho fortissimi dubbi, a dirvi la verità, che qualunque figura professionale indicata dal GIP ed estranea da una riconduzione diretta ai soci di controllo di un management possa davvero configurare l'ipotesi di tutelare al meglio gli interessi dei soci. E quindi, di fronte all'idea magari di bloccare la possibilità che la società continui ad avvalersi dei benefici, dei comportamenti di reato eventuali su cui si è iniziato a indagare e non si è arrivati ad alcuna fase di procedimento per cui c'è stato un confronto vero, quindi solo di fronte a questa ipotesi, per distogliere la società dal portare a casa nuovi vantaggi oppure per evitare che continuino ad essere commessi, la possibilità di un crack, di un disastro è molto grave e di configurare danni molto gravi ai soci e ai clienti e ai lavoratori di questa società. Però questa è la mia opinione personale, che non esporrò più nell'ambito della trasmissione, e che oggi adesso mi metto in tasca di fronte invece agli esperti veri, sono esperti di diritto, ai quali abbiamo chiesto di approfondire, di spiegarvi in che cosa è consistita l'applicazione fin qui della norma, in che cosa entriamo in una fase nuova, diversa, e quali siano i diversi aspetti da valutare sia dal punto di vista dei soggetti in campo che dal punto di vista di chi applica questa norma, e cioè il GIP, il pubblico ministero che ne richiede l'applicazione. I nostri ospiti sono appunto l'avvocato Alessandro De Nicola, partner dello studio Orrick. Buongiorno avvocato De Nicola. Buongiorno. E Vincenzo Tutinelli, GIP presso il Tribunale di Milano. Buongiorno dottor Tutinelli. Buongiorno. Ecco, io comincerei da lei, dottor Tutinelli. Nella applicazione concreta di questa norma, io mi sono limitato a spiegare quello che oggi è un passaggio molto importante, visto che se ne chiede l'applicazione alla società di questo rilievo. Dal suo punto di vista, rispetto ai reati da cui partimo e alla loro estensione, la sua opinione è che si sia trattato di un'interpretazione estensiva ma con misura, oppure semplicemente di una estensione dovuta al fatto che le fattispecie concrete si sono rivelate poi nelle diverse indagini, quando si è trattato di applicare queste norme interdittive, meritevoli di estensione, perché insomma le società a volte non se ne danno per inteso che esistono questi strumenti e continuano a procedere senza norme adeguate a impedire il compimento di reati al loro interno. La sua opinione qual è? È difficile esprimere un'opinione unitaria, farei un passo indietro. Il riferimento al commissariamento che abbiamo fatto è un riferimento ad una sanzione che è una sanzione estrema, che non è la sanzione tipica del sistema della responsabilità degli enti, che viene all'esito di una valutazione che ha escluso la possibilità di applicare misure più idonee o proporzionate, anche perché ben altre sono le misure che generalmente vengono applicate nel caso di responsabilità degli enti, quale può essere la sanzione pecuniaria, la confisca ed altro. In particolare è una sanzione estrema perché viene nel caso di un profitto di rilevante entità e segue la valutazione di responsabilità comune. Il commissariamento, tra l'altro, non è nemmeno una sanzione vera e propria, è una sostituzione della sanzione. Cioè, lei diceva il problema di realizzare l'interesse dei soci. Ci si trova di fronte a un fenomeno in cui si ha una società che ha commesso una serie di reati, sto parlando in via generale astratta chiaramente, si è determinato un profitto di rilevante entità. A quel punto la soluzione prevista dalla legge sarebbe quella dell'interdizione dall'attività o da determinate attività. Però quando sia necessario salvare questa società perché la società ha un rilevante interesse, perché sostanzialmente ci potrebbero essere delle ripercussioni forti sull'occupazione ed altro, scatta il commissariamento, che è uno strumento per farla vivere la società, per mantenere, diciamo così, quello che è l'interesse non tanto dei soci quanto di tutte le persone che intorno a questa società vivono, i dipendenti, i creditori, gli obbligazionisti. Quindi questo, il commissariamento ha un senso in quanto permette di far sopravvivere la, la società. Dottor Tottinelli, posso un secondo interromperla? Certo. Perché naturalmente partiamo dal presupposto che chi ci ascolta, anche se ascolta fedelmente Radio 24, quindi la radio che fa informazione, approfondimento economico e così via, non è un esperto tecnico di questa norma. Allora le faccio una domanda per spiegare concretamente a casa che cosa avviene. Ha spiegato qual è la misura sostitutiva dell'interdizione del commissariamento, e dice che il commissariamento in realtà serve proprio a farla vivere, cioè a tutelare la continuità aziendale, a tutelare i posti di lavoro. In questo caso sono migliaia di posti di lavoro di un'azienda avanzata, se parliamo, pensiamo a Fast. Però nella legge e concretamente poi nell'attuazione di legge, le chiedo, nei casi che sono già avvenuti, visto che la misura interdittiva viene chiesta all'inizio del procedimento, ripeto, quando si inizia a indagare, ma ancora sulle intercettazioni, su tutti gli elementi da valutare se assurgeranno o meno nel procedimento poi al rango di prova, siamo all'inizio. Allora, la legge, se io ricordo bene, poneva una specie di filtro di condizioni, di preclusioni alle sanzioni interdittive, e affermava il principio che se l'ente in questione, la società in questione, si dichiarava disposta, cioè iniziava una specie di trattativa, se capisco bene, con il GIP ad alcune condotte, cioè a risarcire il danno, a eliminare le conseguenze dannose del reato, a modificare ulteriormente i modelli organizzativi che aveva assunto nel passato per, e che discendono appunto dal rispetto alla legge 231, a mettere a disposizione gli eventuali profitti realizzati come se fosse una specie di confisca e volontariamente dare. Se dichiarava disponibilità a tutto questo, la sanzione interdittiva non c'era. Allora le chiedo, siccome non mi è chiaro, spieghiamo a chi ci ascolta. All'udienza del GIP che c'è oggi, avviene una specie di trattativa tra gli avvocati della società e il GIP, perché se la società dichiara la sua volontà di porre in essere qualcuna o insieme tutte questi atteggiamenti, non si arriva alla misura interdittiva, o la misura interdittiva prescinde, per così dire, perché è come se fosse una misura cautelare di libertà personale che il GIP esamina per le solite tre ragioni che oramai dopo tanti anni conosciamo, per il periodo di fuga, di terrari reati o di inquinamento della prova. Come funziona l'esame da parte del GIP? Beh, definirla una trattativa è un qualche cosa di improprio. L'esame del GIP è un esame che si articola in due fasi, diciamo così. La prima fase è una fase abbastanza tradizionale, intuitiva, perché chiaramente bisogna valutare quelli che sono gli elementi che sono stati raccolti fino adesso, verificare se si tratti di indizi gravi e concordanti e se ci siano le esigenze cautelari. Questo l'abbiamo detto. La trattativa a cui lei faceva riferimento è un elemento ulteriore, cioè in sede di questa udienza si fa prima dell'applicazione della misura, proprio per garantire un contraddittorio precedente, si valutano quelle che sono le condizioni ostative all'applicazione del commissariamento. Quindi non è una vera e propria trattativa, quanto la possibilità di una condotta attiva della società che o risarcisca integralmente il danno eliminando le conseguenze dannose, ovvero elimini le carenze organizzative. Che cosa significa carenze organizzative? La società avrebbe dovuto, era tenuta a implementare un modello organizzativo che era finalizzato proprio ad evitare che ci fosse la commissione di reati. E quindi il problema in questo caso è verificare non tanto a questo punto che cosa è successo, ma concretamente quali sono le condotte che la società voglia porre in essere per evitare l'applicazione della misura. Ma questo non è un potere, diciamo così, discrezionale del GIP, è una valutazione in ordine a ipotesi che sono tassativamente previste dalla legge stessa, cioè questa eliminazione delle conseguenze dannose del reato e l'eliminazione delle carenze organizzative, ovvero la messa a disposizione del profitto. Volevo aggiungere una parola su quello che lei diceva in sede di introduzione, il profilo relativo alla possibile disincentivazione dall'arrivo dei capitali dell'investire in Italia per effetto di questa misura. Sì. C'è da considerare un qualche cosa, cioè questa struttura sanzionatoria per quanto riguarda le società non è esclusiva dell'Italia, anzi il legislatore italiano l'ha introdotta, come lei accennava prima, proprio sulla base di direttive comunitarie ed è un'esperienza che nasce negli Stati Uniti, ma addirittura i richiami classici sono una sentenza del 1909. E negli Stati Uniti, adesso non traccio tutto il sistema, però ci sono delle sanzioni molto simili. Vedremo eventualmente avanti che cosa significa molto simili, quindi direi che non è questo tipo di sanzione che potrebbe costituire un ostacolo, perché comunque una responsabilità degli enti è un principio che è internazionale, sta diventando sempre più ampio ed esiste già in molti ordinamenti, faccio un esempio la Francia. No, io capisco, però adesso non voglio entrare in un ambito troppo tecnicamente approfondito. Le caratteristiche della fase delle indagini preliminari italiane e dei poteri particolari ascritti ai pubblici ministeri, che nel nostro ordinamento sono molto forti, molto più forti che in altri ordinamenti, che cosa dal mio punto di vista, che mi occupo oggi di difendere i diritti dell'impresa, non nell'impunità, perché ovviamente noi stiamo ragionando sul fatto che le imprese dal mio punto di vista devono assolutamente, sono interessate anch'esse a evitare che imprese concorrenti rendano opaca e adulterino la concorrenza con comportamenti illeciti. Questo è una finalità principio del mercato, perché il mercato funziona. Dico solo che poiché i poteri attribuiti al pubblico ministero nella fase di indagine preliminare sono molto forti nel nostro ordinamento, che cosa avviene? Avviene, per parlare della cosa di oggi, dottor Tino, non ne voglio che parli lei, tutti ne ci mancherebbe altro, e non chiederò neanche a Alessandro De Nicola d'ora in avanti di parlarne, però che cosa succede oggi? Oggi succede inevitabilmente che gli avvocati rappresentanti degli interessi di Fastweb e del Swisscom che ne esercita il controllo, pur di evitare la misura interdittiva molto grave, che da un punto di vista della, ripeto, vita ordinaria di una società come Fastweb significa il congelamento di Fastweb, significa che la mettiamo in frigorifero, che non fa più concorrente di Telecom Italia, insomma questo significa, per evitare quello inevitabilmente si diranno disposte a molte cose che io capisco, dottor Tutinelli, dobbiamo tutti augurarci che siano nell'interesse, però significa che proprio per evitare quello e nella disponibilità a fare tutte le cose che abbiamo detto e anche di più pur di evitare la misura interdittiva, pregiudicheranno molto la possibilità di difesa nel procedimento dei loro manager. E in concreto questo a me preoccupa molto, perché significa mettere, tra virgolette, una arma potente che non è solo di indagine, non è solo di prevenzione di nuovi reati, ma di improprio compressione degli ambiti di tutela dei diritti di figure importanti, non perché sono più importanti degli altri, hanno più diritti. Questa è la mia impressione. Ma ripeto, adesso andiamo in pausa pubblicità e dopodiché vediamo l'altro punto di vista, quello rappresentato dall'avvocato De Nicola, e anche a lui chiederemo questo istituto come è stato attuato fino a questo momento. Ci tornati in studio, stiamo parlando della legge 231, quella in base alla quale oggi GIP esamina la possibilità di commissariare Fastweb e Telecom Italia Spark. L'abbiamo visto con il dottor Tutinelli, giudice dell'indagine preliminare presso il Tribunale di Milano, un pochino la storia di questa legge e cosa avviene oggi in concreto, cioè come la società possa tentare di evitare misure interdittive così gravi. Io ricordo a chi ci ascolta che naturalmente nella legge si pone l'eccezione per gli enti pubblici. Agli enti pubblici la 231 non si applica, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti con funzione di rilievo costituzionale. Perdonate la mia semplificazione per chi è in ascolto, ma siccome stiamo parlando di sbattere in carcere e magari commissariare società per che sono andate in credito fiscale, perché questa è solo questo, è l'ambito delle indagini per le telefoniche, le altre, quelle del Carosello, quelle dell'Andrangheta, di Mobkel, eccetera eccetera, di Girolamo, del senatore che si è dimesso ieri, quelle non hanno versato l'IVA allo Stato per centinaia di milioni, hanno fatto riciclaggio e hanno eventualmente costituito fondi neri. Le società telefoniche sono andate in credito di IVA e eventualmente hanno quindi dato false, improprie rappresentazioni dei propri conti ai soci al mercato. Ma si tratta di reati, per quanto gravi, che si possono estinguere anche con sanzioni, con una trattativa con l'Agenzia delle Entrate e con sanzioni amministrative. Che in tutto questo però lo Stato e gli enti pubblici non rientrino mi sembra un po' improprio, perché da una parte si schiaffano in galera, può essere giusto o meno, manager per improprie rendicontazioni, dall'altra gli Stati truccano i propri conti, come stiamo vedendo nella crisi dell'euro sovrano, perché gli Stati e ciò che è pubblico non risponde a queste esigenze di dover estendere la responsabilità oggettiva penale, come si fa invece per le imprese private. È proprio giusto? Ma non lo so, a me sembra di no personalmente. Comunque, allora, avvocato De Nicola, rifacciamo un passo indietro. Dall'introduzione di questa norma oggi, in realtà, come è stata applicata nell'ordinamento italiano, nella sua esperienza? Allora, è stata applicata quello che interessa a noi in questo momento, cioè la sanzione cosiddetta interdittiva, che può essere o la sospensione dell'attività oppure il commissariamento. È stata applicata con molta cautela ed è stata applicata in casi in cui era evidente fin dall'inizio quale potesse essere la configurazione della situazione. In più è bene ricordarsi che in molti casi non è stata applicata quando si è visto che era possibile attraverso altre misure, ad esempio l'adozione. La legge prevede questo modello organizzativo. Cos'è questo modello organizzativo, per essere semplici? È un insieme di procedure che servono per controllare la regolarità dei comportamenti di chi sta all'interno dell'azienda. Non è stata applicata, questa è la trattativa a cui lei si riferiva, perché si va dal GIP, dal giudice, si va e si dice: beh, noi adottiamo questo modello, adottiamo delle misure precauzionali, e allora, siccome la misura interdittiva, il commissariamento, deve essere applicata o se non c'è nient'altro che sia sostitutivo, questo lo dice la legge, la misura cautelare la si applica se non c'è niente di meglio. E in più se c'è la possibilità che ci sia una reiterazione, cioè una ripetizione degli illeciti dello stesso genere, quindi bisognerebbe pensare che la società in questione, e questo sarà il giudice a giudicarlo ovviamente, in questo momento c'è la possibilità che faccia esattamente gli stessi reati dei quali viene accusata. Oggi per esempio stia ancora facendo, possa ancora fare le frodi carosello fiscale con quelle società. Esattamente. Questo naturalmente lo lasciamo agli ascoltatori capire da quello che c'è scritto sui giornali, e sarà ovviamente il giudice a deciderlo, però quella è l'eventualità in cui si dà la misura cautelare. Se c'è la legge dice esattamente il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole. Inoltre all'estero è vero c'è la responsabilità penale delle imprese o amministrativa, che dir si voglia. Le sanzioni che vengono applicate però sono quasi sempre, ma nel 99,9% dei casi, pecuniarie. Non ci sono esempi di società quotate che abbiano avuto sanzioni diverse dalle pecuniarie, e sicuramente non in fase cautelare. Negli Stati Uniti, dove addirittura chi viene beccato per omicidio, se paga la cauzione, se ne può andare libero, come qualunque cultore di telefilm, esatto, qualunque cultore di telefilm sa benissimo, ma è proprio impensabile che ci sia una sanzione cautelare, quindi quando ancora nessuno si è espresso, che possa fermare un'azienda. È proprio fuori dall'ordinamento americano. In più c'è un aspetto che va considerato: questa è una legge per prevenire reati economici, e quindi al di fuori dell'interpretazione corretta di questa legge l'applicazione di misure che siano dannose all'ordinamento o al sistema economico. Tra una sanzione che distrugge ricchezza e una sanzione che non distrugge ricchezza o ne distrugge meno, è evidentemente preferibile quella che non distrugge ricchezza, semplicemente distribuendo, quindi affibbiando una multa a chi ha commesso il reato e quindi trasferendo i soldi allo Stato, quindi senza distruzione di ricchezza ma semplicemente con trasferimento, so che lei dirà i soldi dati allo Stato sono sprecati, però questo al legislatore non importa, c'è semplicemente un trasferimento, che è invece una misura che distrugge la ricchezza, perché il commissariamento necessariamente prevede che cosa? Che venga nominato una persona che, per quanto preparata ed intelligente, non conosce la società. Solo per conoscere la società gli ci vorranno mesi e mesi. Se è una persona minimamente prudente, non prenderà iniziative particolari, si porrà in atteggiamento nei confronti del regolatore o di chiunque altro abbia a che fare, in atteggiamento di ordinaria gestione dell'attività, ma l'ordinaria gestione dell'attività per certe attività semplicemente non è possibile, non è semplicemente pensabile rimandare scelte o cose di questo genere. Sono molto d'accordo con lei, ma intanto mi pare di capire che lei dà atto che tuttavia la magistratura, i GIP, il giudicante fino a questo momento hanno avuto, diciamo, un'applicazione responsabile, adesso lungi da me, non spetta a me molta giudicare, però molta prudenza, tant'è che i casi in cui sono state applicate sono diventati casi celebri, addirittura, cioè celebri tra i pochi, certo, cultori del diritto, mettiamola, certo, così. Però i pochi casi in cui sono state applicate, il commissariamento è stato applicato l'anno scorso ad una società petrolifera ed è diventato un caso celebre. Un caso di studio. Va bene, sentiamo un secondo gli ascoltatori. Devo dare atto che gli SMS oggi sono, diciamo, di posizioni diverse. C'è chi dice è giusto congelare chi froda le tasse e anche congelare i loro azionisti. Ricordiamoci che il più grande mafioso americano è caduto sull'evasione delle tasse. È notissima questa cosa. C'è chi però dice questa legge mi sembra un po' una stupidaggine, perché se un dipendente non è apicale, magari la società è piccola, allora non me la chiudono. Se invece ha più rilievo il manager apicale, allora la congelano. Bisognerebbe punire chi ha sbagliato personalmente, non l'azienda. E poi molti che sono colpiti da questa esclusione invece di questa sfera di responsabilità analoga per tutto quello che riguarda la sfera pubblica e le società pubbliche. Come sempre il pubblico si autotutela. Sentiamo qualche telefonata. Fabio dalla provincia di Alessandria, prego Fabio. Buongiorno e complimenti per l'onestà intellettuale con cui conduce questa trasmissione. Io volevo solo riportare una notizia che ho sentito e chiedere un vostro commento. Pare che Swisscom, dopo la richiesta di commissariamento di Fastweb, sì, abbia dichiarato con un comunicato stampa che era a conoscenza fin dal 2007 di questo problema, di, sì, questa inchiesta, che era di dominio pubblico, questo è stato scritto nel comunicato stampa, e che addirittura aveva valutato questa inchiesta all'atto di acquistare, la portata economica di questa inchiesta all'atto, sì, di acquistare Fastweb. E qual è la domanda? La domanda è, diciamo, mi sembra un po' preoccupante di questa norma, questa legge, non è tanto il fatto che sia uguale per tutti, ma quello che mi preoccupa è che si applichi quando e come si vuole, perché se i fatti erano del 2007, come mai vengono solo oggi portati all'attenzione, resi Va bene, no, è chiarissima la domanda. Guardi, io rispondo molto brevemente per parte mia, come osservatore che segue le vicende della società telefonica italiana da molti anni e con un certo scrupolo, direi. Quando Swisscom dato quel comunicato di reazione ai provvedimenti richiesti nei confronti di alcuni suoi manager rilevanti della gestione Scaglia fino all'amministratore delegato Parisi e si è preso anche delle misure interdittive chieste verso la società, ha detto l'assoluta verità. Perché? Perché si riferiva però a uno dei tre filoni di quell'indagine che poi vengono riunificati e che poi esplodono in questa raffica di provvedimenti cautelari verso persone fisiche e verso le imprese, e si riferisce solo al filone che riguardava le indagini tributarie condotte dalla Guardia di Finanza negli anni 2006, inizio 2007, esattamente su il traffico telefonico dall'estero, quindi triangolato con problemi di IVA intracomunitaria ed extracomunitaria realizzato da alcune diverse società telefoniche, con acquisizione di documenti che avvennero all'interno degli uffici della società nel del 2006 e anche verifiche sulle procedure ex 231 delle società e anche interrogatori dei manager, alcuni resi spontaneamente, alcune richieste invece dalla tributaria. È solo uno dei tre filoni che non c'entra niente con quello poi dei carabinieri, dei ROS e della DDA relative alle appendici criminose molto più serie delle società Carosello, quelle interfacciate per gli acquisti di traffico dall'estero, in cui c'erano gli indranghettisti, gli esponenti della banda della Magliana, di Girolamo, Santoro di Girolamo e così via, che sono filoni di indagine condotte dai carabinieri e dalla DDA indipendentemente, del tutto indipendentemente da quel primo filone di indagine. Quindi Swisscom non è che scoppia l'acqua calda, dice che le società sapevano delle indagini tributarie, però ripeto, indagini tributarie da sole non configurerebbero, per quanto anche in quel caso vi sarebbe infedele rappresentazione dei conti della società e quindi andremmo in uno dei reati previsti dalla 231, ma non saremmo di sicuro in un'indagine dalla gravità e dall'impatto devastante come questa che arriva alla richiesta del commissariamento. Però questa è la mia opinione personale. Sentiamo poi Virgilio da Ravenna. Prego Virgilio. Buongiorno signor Oscar, grazie per l'opportunità e anche i suoi cortesi ospiti. Le mie sono due riflessioni velocissime da spettatore, non da esperto, spero di non dire castronerie, mi scusi la parola. Allora, sono queste due seguenti cose. Uno, quando in una società fa cosiddetti affari alla luce del sole, comunque con persone o personaggi non limpidi, diciamo sì, così, c'è il rischio che questi signori siano, uno, ricattabili e due, facciano entrare magari nel consiglio di amministrazione personaggi non molto rispettabili, vogliamo dirlo così? Certo. Uno. Due, ma mi sembra che la malavita corra più avanti di noi. Se le fibre ottiche sono il futuro, credo che sia anche sospettabile, per non essere pessimista, intendiamoci, che sia una cosa che possa interessare anche loro. Quindi sì, la varia economia, in un paese pervaso, ahimè, dalla malavita come il nostro, saranno tantissime le aziende, spero poche invece, che sono in base più o meno dalla criminalità organizzata. L'economia a loro fa comodo, devono proliferare. E questo d'accordo, quindi lei dice commissariamo. Io sono d'accordissimo, sì. Grazie, buongiorno. Benissimo. Eccoci tornati in studio, ci ha raggiunti telefonicamente anche Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Buongiorno Rienzi. Buongiorno. Ecco, le chiedo subito, lei come la pensa su il commissariamento, non tanto, non le chiedo un giudizio sulla vicenda di Fasto, però il commissariamento come strumento, misura interdittiva con la 231 per evitare che le società delinquano economicamente, farle rispondere direttamente, è a favore, ne vogliamo dal suo punto di vista un'attuazione ancora più ampia, ancora più penetrante, oppure qualche rischio c'è? Lei che pensa? Ma qui tutto ruota intorno alla fibra ottica, gli utenti hanno avuto un gravissimo danno, quindi è ovvio che il commissariamento è pure tardivo. Noi abbiamo denunciato nel 2007 questa vicenda e la procura soltanto dopo 3 anni ha fatto qualche cosa. La fibra ottica, che ci serve a tutti, ci servirebbe a tutti, fu regalata da Telecom praticamente a Fastweb e bisognerebbe indagare perché, e poi non fu mai valorizzato questo cespite che era il regime di monopolio di fatto, che è quello che ha fatto salire i prezzi. L'imbroglio è tutto qui. Ora, mi sembra assurdo. Quindi che lei parte da un presupposto che al di là dell'indagine, ben prima dell'indagine, dice tutta Fastweb è una truffa ai danni pubblici, più o meno, perché insomma, siccome la rete iniziale era di una città pubblica o del Comune di Milano, questo è un ragionamento. La rete di fibra ottica fu fatta dalla SIP con i soldi nostri, con i soldi delle bollette, quando la SIP era un ente, diciamo, posseduto dal tesoro. Quindi era nostra, fu regalata dicendo che non serviva, però fu un grosso affare per chi ricevette questo regalo, che fu appunto la AM di Milano e Fastweb, e su questo va indagato. Poi però fu pagata cara Swisscom con un'OPA sospetta che noi denunciamo all'antitrust europeo e all'antitrust italiano. Ma l'OPA naturalmente fu quella vera, perché chi doveva prendere i soldi li prese. Il problema fu che, non essendoci dentro il valore del monopolio, che è poi il vero valore di questa benedetta fibra ottica, perché è stata data in esclusiva a Fastweb, qualcosa che ha fatto salire i prezzi, perché noi oggi dovremmo pagare molto di meno per la fibra ottica e per la velocità su internet. Questo problema va approfondito e certamente non può essere fatto mentre chi ha incassato, chi ha guadagnato da questa operazione gestisce l'azienda. Quindi va nominato un commissario immediatamente che faccia anche calare i prezzi a livello della concorrenza. c'è stata anche una distorsione del mercato e della concorrenza sul mercato con questo meccanismo perverso. Rienzi, io guardi, le faccio notare che lei ha detto che della SIP, la fibra ottica, l'ha stesa la società MetroWeb, che era una delle due, la stesa, non c'era fatta dalla SIP. Comunque, detto questo, io non voglio fare polemica, dico solo, Rienzi sottopone invece, dà un forte consenso, e questa devo dire è una posizione molto estesa tra l'associazione dei consumatori, Rienzi presidente del Codacons, all'adozione e l'applicazione di misure di questo tipo, di cui, come abbiamo sentito, lamenta anzi la tardività di solito, quindi dice meglio che con la giustizia si vada più pesanti che leggeri, perché gli interessi economici e finanziari sono opachi, si fanno gli affari loro, fanno poi le finte opere, si portano a casa i soldi del controllo, mentre invece gli utenti e i soci di minoranza spesso vengono raggirati, ed è un punto di vista molto forte nell'arena pubblica italiana, che su questi temi la giustizia, siamo abituati a vedere quanto conti questa voglia di vedere risolto con la giustizia un po' con la mano pesante, quello che nella vita ordinaria, con le procedure ordinarie, con le misure ordinamentali e societarie, soprattutto con le misure autostatutarie volte a impedire il compimento di illeciti, non si vede invece ottenere il risultato ordinario. Chiedevo a tutti Nelli, da questo punto di vista, torniamo alla dinamica di quello che avviene oggi, senza entrare nel merito di quello che avviene oggi. Abbiamo visto che c'è questa specie di valutazione che il GIP fa, deve fare in termini di legge, e che anche l'avvocato De Nicola dice di solito ha fatto in maniera molto responsabile, cioè non dobbiamo immaginare che il GIP voglia devastare le imprese, è stato molto prudente nella media dei casi fino a quest'oggi. Tuttavia le chiedo questo, uno dei fini di questa legge è che la responsabilità della società ci sia, perché il manager, il dipendente che ponga in atto queste ipotesi di reato le faccia, ma la società poi ne trae un vantaggio. In questo caso il vantaggio è evidente, perché se uno fa più traffico, più credito IVA, nei conti della società ci va, migliorano, non c'è dubbio. Ma oggi il GIP concretamente, quando va all'udienza, come fa a esaminare la complessità di una vicenda di questo tipo? Sto dicendo, Fastweb l'accusa di aver fatto 29 milioni di euro di credito fiscale improprio, di credito IVA improprio, in anni e anni, in tre anni almeno, quattro probabilmente, di compravendita di traffico, eccetera, eccetera, in conti che superavano il miliardo e mezzo. Ecco, allora, di fronte a questo, il GIP come fa a valutare in quel caso, pur essendoci stato un vantaggio della società, eccetera, come fa a esaminare che davvero lo sapesse l'amministratore delegato, che era comportamenti che il vertice della società faceva tenere per abbellire i conti, quando l'importo non è poi così, mi perdoni, decisivo rispetto al raggiungimento degli obiettivi della società? Come fa il GIP in quel caso? Che strumenti ha per valutarlo? Una premessa, della vicenda Fastweb non parlo. No, noi stiamo parlando in generale. No, si figuri. Poi non posso rispondere a domande che riguardino colleghi, ci mancherebbe. Diciamo così, in termini generali astratti, posso fare due o tre considerazioni e forse in parte non rispondo alla sua domanda per limiti fisiologici. La prima, l'ispirazione della legge riassumendolo in una frase un po' ad effetto, è che si fa di tutto perché il crimine non paghi. Si fa di tutto perché il crimine non paghi, come le dicevo prima, con una serie di sanzioni abbastanza articolate. Si parte dalla pena pecuniaria. Quindi soprattutto su un ambito economico si verte. Per questo non sono particolarmente d'accordo su una visione unilaterale, diciamo così, di distruggere la ricchezza, proprio perché io non sto difendendo in questo momento né l'operato del GIP né l'esistenza del commissariamento. Però il legislatore inevitabilmente doveva fare i conti con una cosa: se aveva una società che aveva fatto dei crimini gravi di entità grave, doveva decidere un contemperamento fra gli interessi del fatto che il crimine non dovesse pagare e con la necessità di continuare a costruire ricchezza, mettiamolo in questo modo. Certo. E il legislatore ha dato questa soluzione. quelle che possono essere le applicazioni caso per caso, dicevamo prima, è una misura assolutamente eccezionale ed è stata applicata concretamente con molta prudenza, perché chiaramente siamo in un ambito in cui chi decide sviluppa una determinata professionalità, non è come dire, non è leggero nemmeno mettere in carcere le persone, chiaro. Ci mancherebbe. È un qualche cosa di assolutamente parallelo. Io mi augurerei che davvero tutti lo pensassero, perché a volte ho l'impressione diversa, ma sono sempre, io difendo sempre la buona fede di chi ha un giuramento e porta una toga, rappresenta l'accusa e poi deve esaminare dal punto di vista invece del giudice le richieste dell'accusa. Le misure interdittive che colpiscono la libertà, il patrimonio eccetera sono terribili, insomma questa è la mia opinione, però lo dico da vecchio studente e poi laureato in legge, che pensava che dovesse decidere mai della vita e del patrimonio di qualcuno, non mi ci sarei trovato in quei panni, però bisogna esserci ovviamente nato e avere un'idea di come si perseguono la tutela dell'ordinamento. Detto questo, avvocato De Nicola, io mi scuso con Marco da Napoli, l'ultima telefonata non la possiamo mandare in onda perché abbiamo solo più un minuto e pochi secondi, quindi Marco da Napoli, comunque riporto la sua opinione che mi viene riportata sistematicamente favorevole al commissariamento delle telefoniche per ridimensionare il potere della telefonia. Io invece penso per reati commessi nello stesso esercizio a Telecom Italia non viene chiesto il commissariamento e la defenestrazione di Franco Bernabé, mentre viene chiesta per reati il cui importo è minore negli stessi esercizi per Fastweb, mi dispiace, io vivo in Italia, mi prendo la responsabilità di dire che penso che vogliono congelare Fastweb, e Franchino Bernabé fagli un bel favore. E la radio di Confindustria mi costerà questa dichiarazione, però questa è l'opinione libera di questo matto che è al microfono. Non chiedo questo all'avvocato De Nicola, all'avvocato De Nicola chiedo 30 secondi di valutazione sull'aspetto invece internazionale. Esistono precedenti di altri paesi che a società di questo rilievo quotate in borsa col controllo estero applicano misure di questo tipo nell'Europa e fuori? Che io sappia no, ma anche a livello nazionale, e su questo sono certo al 101%, non esistono precedenti, vabbè, in paesi di cui si sa, poi obiettivamente non so in Mongolia cosa succeda, ma insomma in paesi di cui le cose si sanno, di sanzioni interdittive applicate in via cautelare. Ripeto per gli ascoltatori, interdittive vuol dire che agiscono sulla conduzione della società, e cautelare vuol dire che agiscono prima che ci sia un verdetto finale. Grazie all'avvocato De Nicola, al dottor Tutinelli e Carlo Renzi, presenza di Codacons. Abbiamo tentato di spiegarvi che cosa consiste il retroterra normativo e le conseguenze di questa terribile decisione che oggi deve prendere il GIP di Roma sul commissariamento di Fastweb, e non di Telecom Italia, ma solo di una piccola controllata, Sparkle. Sta tutta lì, credo, la sostanza della vicenda, in questa asimmetria. Pensateci, grazie a Pietro Lacorti in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione, alla linea Generale Radio. Appuntamento a domani.